Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Tappa a forte impronta californiana oggi. Pensate che vi porteremo direttamente alla NASA e soprattutto forniremo consigli utili a chi sta pensando di andare a fare ricerca negli Stati Uniti. E se la California non fosse sufficiente per alimentare i vostri sogni su concrete opportunità di lavoro all'estero, beh, allora preparatevi per un secondo volo transoceanico che ci porterà in chiusura di puntata in Australia. Attraverso un simpatico romanzo vi forniremo informazioni molto utili su come ottenere il visto per approdare a Sydney e, si fa per dire ovviamente, dintorni. La frase della settimana è copyright del rettore dell'Università di Sassari, Massimo Carpinelli. L'ascensore sociale rappresentato dagli studi universitari si è inceppato, forse rotto irreparabilmente. Produciamo meno laureati degli altri paesi avanzati, dice Carpinelli, e di quelli che ce la fanno 100.000 vanno via dall'Italia ogni anno. Il rettore ha citato uno studio condotto da ricercatori italiani al Trinity College di Dublino, secondo cui per la prima volta dalla dopoguerra il mondo del lavoro in Italia vede restringersi la platea di laureati e di giovani in possesso di una formazione superiore. Pochi laureati, ma tanta economia sommersa che sottrae risorse utili proprio a rafforzare le risorse all'istruzione. Uno dei tanti, troppi paradossi italiani. Nel 2014 l'economia sommersa e derivante da attività illecite valeva 211 miliardi, il 13% del PIL. Lo rileva l'Istat, precisando che il valore aggiunto generato dalla sola economia sommersa ammonta al 12% del PIL. E possiamo definire economia sommersa, non osservata o magari non pervenuta anche il PIL potenziale che abbandona l'Italia nella forma di giovani ricercatori di talento? Ci sono troppi enti con competenze a volte sovrapposte e con attività analoghe se non uguali. Basta vedere il sito del MIUR con i vari enti. E soprattutto ci sono troppi presidenti di questi enti e pochi ricercatori. Esatto. Pietro Milillo, 27 anni, è un ricercatore postdoc presso la NASA negli Stati Uniti. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. Dall'Italia fuggono anche le start-up. L'amara scoperta è contenuta nel rapporto Startup Heatmap Europe. Il rapporto afferma che la penisola registra un meno 29% quale saldo tra arrivi e uscite di start-up per 6 imprese innovative. All'opposto l'Olanda, più 31%. L'Italia sta perdendo imprenditori su larga scala, conclude il rapporto che definisce la situazione allarmante e parla di fenomeno di brain drain. Maggiori info su startupheatmap.eu. E se guardiamo all'ultimo rapporto Eurostat sull'impresa ad alto potenziale di crescita, nel 2014 l'Italia era solo terz'ultima in Europa per percentuale, davanti, magra consolazione, a Romania e Cipro. La competitività dell'Italia è migliorata, ma più lentamente degli altri. Per questo il paese scivola in 44esima posizione, a dirlo il Forum Economico Mondiale nel suo rapporto annuale sulla competitività. Le riforme hanno migliorato la situazione, ma pesano la burocrazia, la fuga dei talenti e i tempi lunghi necessari perché funzioni il Jobs Act. E l'Italia perde posizione anche nella capacità di fare impresa. Secondo il rapporto Doing Business 2017, scivoliamo al 50° posto nonostante un miglioramento della performance. Spunta la proposta di un visto facilitato di accesso e di lavoro limitato per la sola Londra, per la Gran Bretagna del dopo Brexit, lo rivela il Financial Times, secondo il quale l'idea è nata in seno alla Chamber of Commerce londinese. Obiettivo: mantenere aperte almeno le porte della capitale ai lavoratori e ai talenti europei. Entra nella fase operativa anche nella penisola The European Pact for Youth, impegno sottoscritto da CSR Europe e Commissione Europea, che punta a realizzare 10.000 partnership scuola imprese entro il 2017 per rafforzare l'occupabilità dei giovani. A coordinare il piano Fondazione Sodalitas e Impronta Etica, già coinvolte 35 imprese. È online la nuova versione del portale Miura dedicato alla ricerca, researchitaly.it, dopo 3 anni di attività il sito, che si rivolge direttamente alla comunità scientifica con notizie e informazioni sul e per il mondo della ricerca, ha adottato una nuova veste grafica. Il portale darà massima visibilità a centri di ricerca e università, scienziati affermati e giovani ricercatori. Si apre la competizione tra ricercatori per aggiudicarsi i Consolidator Grants, premi che lo European Research Council assegna annualmente ai migliori talenti di qualsiasi nazionalità con 7-12 anni di esperienza postdoc. L'ERC ha annunciato la pubblicazione della Call for Proposals per il 2017 che, con un budget complessivo di 575 milioni, finanzierà 320 ricercatori, ognuno dei quali riceverà una borsa del valore massimo di 2 milioni in 5 anni. Le proposte devono essere inviate entro il 9 febbraio. E in chiusura l'interessante iniziativa del Festival delle Lettere, giunto alla 13ª edizione, che quest'anno propone come tema conduttore Lettera a un cervello in fuga. Ce ne spiega il perché Luca Carminati, presidente del Festival. Attraverso una lettera, questo noi lo sappiamo, riusciamo ad accorciare le distanze, quindi ecco perché abbiamo scelto di individuare questo tema, perché attraverso queste lettere noi ci auguriamo che questi cervelli lontani da noi rimangano un pochettino più vicini o si avvicinino un po' di più, perché una lettera, questo è quello che è capace di fare. Quindi l'idea è quella di mandare dei messaggi in bottiglia, potremmo dire, a questi cervelli. Esatto, guarda, è un paragone perfetto, quindi chiaramente quello che chiediamo al Festival delle Lettere sono lettere a mano, quindi questo è l'impegno che chiediamo a chi partecipa al Festival delle Lettere, perché attraverso una lettera scritta in quel modo siamo certi, e ormai ne abbiamo la convinzione grazie appunto alle oltre 24.000 lettere che abbiamo in associazione, che le emozioni siano più forti e più dirette. Tutte le info su festivaldellelettere.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in California per andare al top della ricerca mondiale. Nome: Pietro. Cognome: Melillo. Età: 27 anni. Città di origine: Casamassima, provincia di Bari. Studi: laurea triennale specialistica in fisica, dottorato di ricerca in ingegneria dell'ambiente. Anno in cui hai lasciato l'Italia: definitivamente da marzo 2016. Per andare dove? Pasadena. Perché? Ho vinto un concorso da ricercatore postdoc presso la NASA. Quale lavoro svolgi attualmente? Studio fenomeni ambientali. Dove? Al laboratorio della NASA Jet Propulsion Laboratory. Tornerai? Sì, per andare avanti, ma non per tornare indietro. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Lavorare alla NASA è dura ma anche esaltante ed emozionante. È un lavoro che mi permette di continuare a crescere a livello professionale, che mi dà la certezza e la gioia che sto facendo cose non banali e al massimo livello planetario. Così Pietro, riassumi la tua esperienza negli Stati Uniti in modo molto chiaro e diretto. Lavori in un ambiente che non esiti a definire al top e non è dunque, ti chiedo, poi così inarrivabile come si pensa se ci si dota di un po' di sana ambizione? Beh, personalmente penso di aver toccato con mano quello che si definisce il sogno americano, che significa sostanzialmente avere la possibilità di esprimere il proprio potenziale. Ecco, questo è molto importante, esprimere il proprio potenziale. Riavvolgiamo il nastro della tua storia. Nasci a Bari nell'anno della caduta del muro, ti diplomi al liceo scientifico, scegli la facoltà di fisica per il tuo percorso di carriera. Perché? La scelta in fisica è nata al liceo. Ti racconto un aneddoto: il primo compito in classe di fisica mi ha fruttato un misero 4 ed ero abbastanza frustrato dei miei risultati, ovviamente pur mantenendo ottimi voti in matematica. I miei genitori mi colpevolizzavano per la scarsa applicazione allo studio, accusandomi di passare. E poi da lì immagino, Pietro, un po' di senso di rivalsa ti ha portato a dire: beh, allora mi concentro sulla fisica. Che voto dai a posteriori all'istruzione che hai ricevuto in Italia, soprattutto se confrontata col metodo americano? Beh, darei un bel 8 su 10, perché ti garantisco che quanto ho studiato a fisica a Bari, ad Unibus, mi è servito e mi serve moltissimo nel mio lavoro. Concluso il percorso universitario e conseguita la laurea, opti per il dottorato. Domanda diretta: sì o no, è stato facile ottenerlo in Italia? Non è stato facile ottenerlo in Italia, per il semplice motivo che in Italia noi abbiamo solo 3 anni a disposizione, mentre all'estero il dottorato può durare anche 5 anni, in quanto si possono accorpare anche 2 anni della laurea specialistica. Questo mette pressione agli studenti italiani che devono allo stesso tempo produrre articoli scientifici, ma anche imparare a fare ricerche, a volte fanno anche didattica. Pietro, è vero che hai preferito la Basilicata alla Germania per il dottorato, e se sì, perché? Sì, avevo superato le prove con l'Università di Hannover. Diciamo che ho scelto l'Università della Basilicata per diversi motivi, non ultimi i consigli avuti dal mio correlatore di tesi magistrale. Diciamo, a 22 anni non me la sono sentita di lasciare la famiglia di una famiglia del sud Italia. Allora, ho preferito la sede più vicina a casa. Pietro, è interessante notare come proprio il dottorato poi ti spalanchi le porte degli Stati Uniti. Come ci approdi in concreto? Il mio tutor di dottorato, il professor Camille Serio, mi ha chiesto se ero interessato a fare un periodo di formazione specialistica presso il California Institute of Technology a Pasadena, e ovviamente io ho detto di sì, perché il Caltech è una delle più prestigiose università al mondo ed è esattamente collegata con i laboratori della NASA, JPL. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Nelle istituzioni americane ho conosciuto e frequentato molti santoni della ricerca sui cui libri avevo studiato. Capirai l'emozione e la gioia di collaborare con loro, arrivando a firmare insieme pubblicazioni scientifiche. Cosa ti propongono i tuoi capi americani alla fine del periodo di stage da dottorando, Pietro? Sostanzialmente loro mi proposero di restare con borse di studio su più progetti in Asia già approvati. Sostanzialmente io invece ho scelto di scrivere il mio progetto di ricerca che ho vinto e la serie di lavoro che mi è stata assegnata è quella del JPL NASA a Pasadena. Vinsi il bando NASA e ora ho un contratto biennale rinnovabile. La mia serie di lavoro è il JPL di Pasadena. Annoti, ci dai un'idea il più semplice possibile del settore di cui ti occupi? Attualmente mi occupo in prevalenza di temi legati al bando NASA, in particolare mi occupo dei cambiamenti climatici legati allo scioglimento dei ghiacciai in Antartide e uso dati satellitari e non per il monitoraggio delle dinamiche dei ghiacciai, mettendo a punto modelli matematici per comprendere la loro evoluzione. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Pietro Milillo, 27enne postdoc al NASA Jet Propulsion Laboratory in California. Pietro approda negli Stati Uniti grazie ai contatti intessuti nel corso del suo dottorato italiano. Oltreoceano scopre un mondo della ricerca radicalmente diverso rispetto a quello che aveva lasciato nella penisola e si chiarisce presto le idee sulle tante cose che ancora devono cambiare in Italia per rendere il nostro un paese realmente competitivo. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Come descriveresti l'ambiente di lavoro? Partiamo da questi tre vocaboli che citi spesso nel racconto che hai inviato a giovanitalenti@radio24.it: informalità, collaborazione e competitività. Per quanto riguarda l'informalità, diciamo che quegli stessi santoni che ho conosciuto mi hanno subito chiesto di dargli del tu e di chiamarli per nome. Questa è una cosa che in Italia non sempre avviene. Poi per quanto riguarda la collaborazione, non è raro essere avvicinato da colleghi, in quanto siamo oltre 4.000 JPL, che mi hanno conosciuto attraverso le letture dei miei articoli scientifici su riviste o a congresso e che mi chiedono un parere, un contributo su alcune loro ricerche. Per quanto riguarda poi la competitività, invece parlo di competitività costruttiva, cioè quella che ti spinge a migliorarti, a migliorare insieme al collega, nel rispetto e nella collaborazione. Per ora nel mio futuro vedo la NASA, sintetizza a chiusura della tua missiva e come darti torto, insomma, anche se tu, come tanti nostri connazionali, vorresti tornare. Giustamente osservi, amo l'Italia, ma non fino al punto di venire a fare il borsista. E qui arriva il primo problema, quello dell'attrattività di un paese che passa anche dai bandi di concorso. Ma qualcuno li legge? Domandi, ironico. Cosa non va in questi bandi, Pietro? Allora, per prima cosa, dopo anni, se non decenni di stagnazione e diminuzione dei fondi al settore della ricerca, mi sembra che la strada intrapresa sia quella giusta. Però in particolar modo gli aspetti negativi, e mi riferisco a quei bandi emessi dai vari enti di ricerca come CNR, ASI, NFN, NGV, INAF, eccetera, sono i seguenti. Uno, si richiede il conseguimento del dottorato di ricerca, altri invece sono solo 3 anni di esperienza di ricerca documentata. Alcuni richiedono l'invio della documentazione via posta elettronica PEC, altri invece i moduli da compilare via internet. Sì, insomma, una burocrazia terribile. Una burocrazia terribile. Pietro, questo è evidente, soprattutto per chi lavora in un ambiente molto più semplice come quello americano. In una parola, tu proponi un hashtag Twitter, meno presidenti, più ricercatori, che sottintende una critica feroce al nostro sistema universitario. Cosa non va, in brevissimo? Si parla di razionalizzazione degli enti di ricerca. Ci sono troppi enti con competenze a volte sovrapposte e con attività analoghe, se non uguali. Basta vedere il sito del NUR con i vari enti. E soprattutto ci sono troppi presidenti di questi enti e pochi ricercatori. Esatto, questo è un tasto delicato che incide sul postificio e sul potere più o meno forte. Postificio, hai detto la parola giusta. Pietro, come vedi più in generale, al di là della ricerca, l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. Comincerei a separare nettamente il pubblico dal privato. Ci sono troppe persone con il posto fisso nel pubblico che fanno anche attività di libero professionista. Bisogna scegliere cosa si vuole e come si vuole farlo. Poi si potrebbe eliminare definitivamente il precariato nel pubblico e nel privato. La strada intrapresa, secondo me, va nella direzione giusta. E poi bisognerebbe incentivare lo sfruttamento dei fondi comunitari, anche dei ricercatori, oltre che dell'industria, con extra sugli stipendi in funzione dei risultati dei progetti acquisiti. E ci raggiunge ora in linea il professor Paul Lundgren, docente e ricercatore al Jet Propulsion Laboratory. Buon pomeriggio, professor Lundgren. Buon pomeriggio. pomeriggio. È raro trovare qualcuno che parli così bene italiano in posizioni di livello come la sua, per cui ne approfittiamo subito. Le chiedo, professore, quanti giovani ricercatori italiani ha visto passare alla NASA nella sua carriera? Io ho visto abbastanza, una 6-10, non mi ricordo esattamente. Tanti sono venuti come borsista, di come postdoc dopo dottorato. E poi quelli che sono bravi, tipicamente a JPL, dove sono io, riescono a trovare un lavoro permanente. È vero, professore, che hanno una marcia in più? Sì, sono sempre persone, quelli che ho conosciuto io, sono sempre molto, sì, molto motivati. Lei ci ha mandato 3 preziosissimi suggerimenti su come venire a lavorare negli Stati Uniti nell'ambito della ricerca. Il primo metodo è quello utilizzato da Pietro, venire durante la laurea o il dottorato italiano. In questo le chiedo, c'è collaborazione tra l'Accademia italiana e quella americana per rendere le procedure semplici? Non so se è semplice, ma generalmente secondo me è una questione di chi in Italia ha una collaborazione con o un'università o un posto di ricerca come JPL. Se esiste questa collaborazione, i professori in Italia possono, per esempio, mandare qualcuno per restare all'università negli Stati Uniti. E poi, professore, ci sono le più classiche opportunità di PhD e di postdoc. Queste sono le modalità migliori per ottenere un lavoro permanente, nota lei. Qui come funziona? Per un PhD, per un dottorato, per farlo negli Stati Uniti, sicuramente uno deve passare un test, per esempio di conoscenza di inglese, deve essere molto buono, con diciamo il background di fisica, di matematica o altri campi, che secondo me è sempre l'università in Italia, anche liceo, italiani sono sempre ben preparati. Spesso questi, soprattutto nelle scienze, questi posti sono anche, viene con un borsa di studio. E poi l'ultimo per fare un postdoc, quello è generalmente aperto, spesso sono aperti, le borse che ci sono aperte a chiunque da tutto il mondo. Mi ha colpito una frase nella sua email a Giovani Talenti: bisogna tenere in considerazione il fatto che uscire dall'Italia può ridurre le possibilità di un successivo rientro. Allora le chiedo anche un po' ironicamente, anche negli Stati Uniti fate così, anche da voi chi fa esperienza all'estero in realtà di alto profilo viene poi escluso? No, qui negli Stati Uniti se qualcuno esce dagli Stati Uniti, va tipo a Germania per esempio per fare università, poi per ritornare non ci sono grossi problemi. Io ringrazio il professor Paul Lundgren, docente ricercatore al Jet Propulsion Laboratory. Buon lavoro. E domanda di rito per Pietro Milillo: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Il mio consiglio è di non avere paura di muoversi. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un ingegnere nucleare per l'Agenzia Internazionale sull'Energia Atomica a Vienna, scadenza per il CV 6 dicembre, info su iaea.org. Una project manager alla University of West London a Londra si occuperà dell'avvio del nuovo Innovation Lab, scadenza per il CV 27 novembre, info su jobs.uwl.ac.uk. E infine vi segnaliamo il nuovo round di assunzioni messo in cantiere dallo European Patent Office, una call per ingegneri e ricercatori che lavoreranno nelle sedi di Monaco di Baviera e Laia, scadenza per CV 13 dicembre, tutte le info su epo.org. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi vi raccontiamo un libro, o meglio un romanzo, che in realtà può rappresentare anche un'interessante guida pratica su come andare a vivere e lavorare in Australia. Si chiama Stella in Australia e, attraverso la storia di una ballerina, ci racconta la vicenda di un espatrio Down Under. Ne parliamo con Mini Minarelli, autrice del libro Stella in Australia. Stella in Australia è un romanzo sotto forma di diario, scritto da questa ragazza, una ballerina, Stella, che è stanca dei provini in Italia, sempre senza portare da nessuna parte, decide di dare una svolta alla sua vita. E secondo un processo di esclusione di altri paesi, decide di andare in Australia. Quindi prende, fa fagotto, e con un visto studente arriva a Sydney. Il diario parla di un anno della sua vita qua in Australia. Tra l'altro non è un'autobiografia, però ci sono dei punti di contatto con la tua storia, è corretto? Assolutamente. assolutamente sì, c'è anche un cameo mio e di mio marito come personaggi nel libro, ma siamo altri. Prendiamo spunto da questo libro per raccontare anche poi le praticità, le difficoltà di doversi trasferire in Australia. Partiamo magari proprio dai visti. Stanno diventando man mano sempre più difficili da ottenere, ma più che altro venire in Australia è relativamente possibile. Il problema che sorge sempre è rimanere. Quindi per giovani come Stella, l'ho dipinta sotto i 30 anni, le possibilità sono fondamentalmente due. Un visto studente, come quello che ha scelto Stella, che le dà possibilità di seguire un corso, di lavorare solo part-time, quindi 20 ore settimanali, e di poterlo rinnovare quante volte vuole, ma sempre supportato da un corso di studio. C'è anche il visto di alcuni altri personaggi che ci sono nel libro, il visto vacanza-lavoro, che è quello che viene utilizzato maggiormente sotto i 30 anni, perché è quello meno costoso da ottenere, visto che non bisogna pagare corsi, ma per riuscire a rinnovarlo un secondo anno, entro il primo bisogna fare 88 giorni di questa famosa farm, diciamo. Poi ogni anno il governo australiano stila diverse regole, quindi i visti vengono cambiati di quando in quando, però questo è ancora l'attualità. E a livello di opportunità di lavoro, come descrivi l'Australia? Ho fatto sì che la protagonista svolga alcuni dei mestieri più più diffusi per le persone, per i ragazzi, per i giovani che approdano qua in Australia, quindi ovviamente l'hospitality, quindi la ristorazione, il mondo della ristorazione, come camerieri, possono essere lavapiatti, possono essere aiuti cuochi, dipende anche dalle competenze e dal livello di lingua. Poi l'ho fatta anche diventare commessa in negozio. Per maggiori informazioni potete cliccare su stellainaustralia.com. Un motivo per restare o tornare. Nel nostro paese il numero di startup innovative continua a crescere a ritmi sostenuti, risultano iscritte nel registro delle imprese oltre 6.000 aziende di questo tipo. Si tratta di giovani aziende che nell'ultimo anno hanno impiegato fino a 4 addetti, operano nei servizi e hanno un valore della produzione che in 2/3 dei casi non supera i 100.000 euro. A livello di governance, il 13% ha una compagine societaria a prevalenza femminile, mentre le startup coordinate in maggioranza da under 35 sono una su 5. E quanto emerge dall'analisi elaborata da BNP Paribas Cardiff. A livello regionale, la Lombardia registrare il valore più alto di startup. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Giovani Talenti e Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internettivo. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni e anche le vostre denunce. Per mettervi in contatto con noi è davvero semplice. Basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, candidate, vi aspettiamo le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.